la situazione dei migranti a bordo della 18 è sicuramente una situazione che si pone al di fuori del diritto. Non vi sono provvedimenti che giustifichino, almeno non sono noti, provvedimenti che giustifichino questo, che di fatto è un trattenimento in un luogo confinato di persone contro la loro volontà, e quindi è una privazione della libertà. E chiaramente in questa situazione non è difficile immaginare che si possa configurare il reato di sequestro di persona, qualora ovviamente ne ricorrano anche, diciamo, i presupposti soggettivi, diciamo l'intenzione, la volontà e quant'altro, ma sicuramente questa situazione è una situazione che è in violazione degli standard internazionali in materia di diritti umani, perché ogni privazione della libertà deve avere la sua base in una norma di legge e deve prevedere la possibilità per chi è privato della libertà di rivolgersi a un giudice per verificare se questa privazione della libertà è in conforme alla legge, cosa che in questo caso ovviamente non avviene. Ovviamente lo stesso discorso si applica alla Costituzione italiana, all'articolo 13 della Costituzione, che prevede lo stesso principio: la privazione della libertà deve essere basata su una norma di legge, una riserva di legge formale, e oltre un certo periodo, oltre le 48 ore, la persona deve essere portata davanti a un giudice che abbia la competenza di verificare la legalità della detenzione ed eventualmente ordinare la liberazione della persona. Questo è, diciamo, uno dei primissimi diritti fondamentali che la nostra tradizione giuridica ha riconosciuto agli individui. Si tratta del diritto all'habeas corpus, che già si trova nella Magna Carta. Insomma, è veramente una violazione flagrante di uno dei pilastri della nostra civiltà giuridica. La via giudiziaria per sbloccare questa situazione è verosimile, secondo lei? Ecco, guardi, questo in realtà è il grosso problema, cioè questo non è altro che un episodio di una serie di episodi, o di un, se vuole, di una tendenza che si è verificata negli ultimi anni nella gestione dei fenomeni migratori, di operare completamente al di fuori di un quadro legale, ciò che paradossalmente rende poi più difficile il ricorso la via giudiziaria per far valere i diritti. In questo caso, ad esempio, ogni ricorso davanti a giurisdizioni nazionali italiane è completamente impossibile da pensare, perché per agire in giudizio davanti a un tribunale bisogna conferire una procura a un avvocato che deve essere personalmente presente con il cliente, con l'interessato, al momento del conferimento della procura. È chiaro che le persone che sono detenute illegalmente a bordo della 18, sulla quale nessuno può salire, neanche, abbiamo visto ieri un parlamentare, non è stato fatto salire, e evidentemente queste persone non sono in grado di conferire procura a un avvocato per un'azione interna. Questo appunto è un elemento molto interessante, perché questa situazione particolare quindi rende un po' impossibile la tutela dei diritti di queste persone. Impossibile no, perché ci sono anche delle altre vie. Intanto ci sono, voglio dire, delle autorità, in particolare l'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica, che effettivamente, come lei segnalava, ha aperto un procedimento che, qualora ne ravvisasse gli estremi, potrebbe anche chiedere il sequestro della nave, per esempio, e quindi far sbarcare le persone, se ritenesse che ci fossero gli estremi. Però chiaramente questo è un'attività che viene svolta d'ufficio dalla procura, non può essere, diciamo, l'interessato che fa valere il proprio diritto. Ecco, è sempre necessaria un'attività di un organo dello Stato, della Procura della Repubblica. Magari qualche possibilità in più ci potrebbe essere per un ricorso, diciamo, sovranazionale davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove, diciamo, le formalità per l'introduzione del ricorso sono meno stringenti di quelle previste dal diritto italiano, ma anche qui ovviamente ci sono tutta una serie di difficoltà legate alla impossibilità di contattare le persone a bordo, legate anche alla natura di questa istituzione, della tutela che offre, che è normalmente una tutela, diciamo, a posteriori, quando la violazione si è ormai già consumata. Quindi mi pare di capire, insomma, che per queste vicende conti molto, come dire, la politica e anche la pressione della società civile. Questo è proprio il punto centrale e, se vuole, il punto dolente. Quando in una società ci si ritrova al punto che per far valere una violazione così flagrante di un principio basilare della nostra civiltà giuridica bisogna arrovellarsi per trovare una via giudiziaria invece di avere una rivolta delle coscienze, no? Questo è il problema. È chiaro che qui quello che manca è la politica. pubblica, quello che manca è la società civile, quello che mancano sono le istituzioni dello Stato che sono in mano, diciamo, a persone che il senso dello Stato non ce l'hanno e che non si fanno nessuna remora a strumentalizzare gli individui, le persone, i loro diritti, le istituzioni per piegarle ai loro interessi politici.